buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siete in ascolto ovviamente di 451 frammenti sonori, trasmissione che va in onda come al solito ogni domenica alle 23:35 circa, a seconda della fine del GR di Radio Popolare Network. Trasmissione stasera che verrà condotta dal solo Elisio Scarpa, cioè io, e dunque un saluto affettuoso e sentito nei confronti dell'altro elemento del collettivo di 451 frammenti sonori, dunque il buon Max Macchia, che sicuramente sarà in ascolto della trasmissione, assente per problemi personali. Ci alterneremo in queste due settimane, nel senso che stasera ci sarò io, la prossima domenica invece ci sarà il buon Max Macchia a condurre 451 frammenti sonori, che anche, ricordiamo, da qualche mese ha inventato, ha costituito un blog insieme con la collaborazione del buon nostro collaboratore Lorenzo, che appunto è costituito su No Blogs. Dunque semplicemente andate su un qualsiasi motore di ricerca, cercate 451 frammenti sonori.noblogs.org e troverete il nostro blog, dove appunto all'interno inseriamo ogni settimana il programma radiofonico della domenica, chiaramente con la possibilità di riascoltarlo in podcast in MP3, più ovviamente la tracklist della trasmissione domenicale con i dischi e gli autori inseriti e il tema ovviamente della trasmissione, più anche qualche aneddoto, qualche suggestiva chicca inserita, da video fino ad arrivare a testi ed altro ancora. Dunque ovviamente vi invitiamo sempre a visitare il blog, anche per contattarci tramite l'email o fare qualche commento anche divertente o minaccioso all'interno ovviamente della trasmissione radiofonica 451 frammenti sonori. Stasera andiamo subito al punto, stasera puntata che ritrova tra virgolette il tema della black music, che da un po' di tempo che manca nella programmazione radiofonica di 451, black music che ritorna utilizzando e sfruttando, diciamo, un termine, un concetto, una definizione che è stata elaborata intorno al 1994 attraverso un saggio intitolato Black to the Future, Afrofuturism 1.0, del critico con Mark Derry, che è una definizione e una elaborazione del concetto di afrofuturismo. Ecco, afrofuturismo che sicuramente farà ben piacere al buon Max Macchia, che sulla materia futurista è ben ferrato ed esperto, una definizione che si costituisce attraverso soprattutto la narrativa fantascientifica legata appunto alla popolazione afroamericana, dove appunto spesso all'interno di questa di questi romanzi, di questa saggistica di genere, l'incontro ravvicinato con l'altro, lo straniero in terra straniera, sembra appunto adatto al contesto di autori afroamericani. Dunque attraverso la fantascienza poi ovviamente si collega il discorso in termini appunto di corrente di pensiero ed elaborazione attraverso anche all'elettronica, alla musica sperimentale, alla black music, passando dal soul alla dance music degli anni 60-70, ma anche alla sperimentazione, al jazz connesso a, diciamo, a forme più elaborate, sperimentali, soprattutto quella legata tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, dove, diciamo, l'orgoglio della negritudine emergeva attraverso le sperimentazioni del free jazz, del free funk, di tutta la galassia jazzistica contaminata e attraversata da altri generi, appunto funk, soul, ma anche jazz rock, jazz psichedelico, jazz cosmico, e anche attraverso tutto il settore legato all'improvvisazione radicale e anche ovviamente al jazz più squisitamente d'avanguardia. E proprio su questo tema stasera ci affronteremo, diciamo, questa materia con il titolo L'afrofuturismo fra jazz cosmico e jazz d'avanguardia, le origini e il futuro. Appunto questo percorso legato al termine afrofuturismo, dallo stesso autore appunto che ha lanciato questa definizione, a cui si sono collegati vari autori e vari pensatori, cioè Mark Derry, ovviamente si collega in termini connessi alla musica black, le origini appunto tra gli anni 60 e 70, appunto nella sperimentazione nel contesto dell'orgoglio connesso alla negritudine, fino ad arrivare ovviamente ai giorni nostri. E noi faremo un percorso con dei frammenti di collegamento fra autori del passato, dunque dalle origini di questa definizione, elaborata, ripeto, ancora nel 1994, fino ad arrivare anche autori che emergono e elaborano forme nuove a livello musicale proprio in questi ultimi anni, ma attraversando, diciamo, gli anni 60, 70, 80, 90 fino agli anni zero. E partiamo subito con un grande capostipite del jazz cosmico e anche ovviamente di tutta una sfera connessa all'orgoglio degli afroamericani, cioè il grande Pharoah Sanders, che spesso ha attraversato 451 frammenti sonori. Lo andiamo a ritrovare da un disco splendido del 1970, cioè Deaf, Dumb, Blind, un lavoro meraviglioso dove appunto tutta la solarità e la tribalità connessa alla musica nera si coniuga anche con una concezione appunto cosmica anche della musica afroamericana, in un'apertura totale verso il futuro. Ce l'andiamo a ascoltare da una traccia meravigliosa di questo album, che dà l'idea e apre questa puntata speciale dedicata appunto all'afrofuturismo. Buon ascolto, Pharoah Sanders. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo questo splendido lavoro da, ricordiamo ancora il disco Deaf, Dumb, Blind, un lavoro appunto di Paroa Sanders, un lavoro dove lo stesso musicista esprime la sua forte connotazione, connesso ovviamente a tutto l'orgoglio e alla cultura afroamericana, con un sottotitolo Summum Bukmun Umyun, che è appunto in lingua originaria africana, a cui si riferisce lo stesso Pharoah Sanders. Sono anni ovviamente quello tra gli anni 60 e 70, dove i musicisti afroamericani, ma tutto l'ambito artistico afroamericano emerge e richiede con forza tutta una serie di diritti e di identità negate fino ad allora, dalla schiavitù fino appunto anche alla società capitalista moderna. E in questo disco appunto la stessa copertina rappresenta fortemente l'aspetto e l'orgoglio afroamericano, con i vari musicisti che appunto si presentano nella copertina con costumi africani, e presenta oltretutto grandi musicisti come Cecil McBee, Lonnie Liston Smith, Clifford Jervis, in questa formazione appunto costituita ad hoc da Pharoah Sanders, musicista che è cresciuto poi con il grande John Coltrane e ha attraversato tutta la sperimentazione e la ricerca musicale degli anni 60-70. E all'interno appunto della tematica di stasera, dedicata appunto a questa definizione, a questo movimento della diaspora africana, l'afrofuturismo, costituito intorno appunto alla metà degli anni 90, ricordiamo anche che fondamentalmente l'obiettivo di questo movimento, che è ancora ben vivo, era quello di dare una prospettiva alla condizione di mezzo che emergeva già dagli anni 80-90, risultato appunto di un passato di schiavitù, di segregazione razziale, e immaginare invece un futuro di rinnovata coscienza nera per uscire appunto da questa condizione di mezzo che attraversava appunto la popolazione afroamericana, che attraversa tuttora la popolazione afroamericana, al di là dell'Obama presidente ovviamente degli Stati Uniti. E all'interno di questo movimento uno dei musicisti appunto collegati agli scrittori, appunto agli intellettuali e appunto ai pensatori che hanno dato vita a questo movimento, c'è un musicista importante che è stato in prima linea nelle lotte per i diritti civili e politici, e collegato anche al movimento estremamente politico di classe del Black Panther, è Joe McPhee, che in un disco importantissimo del 1970, la sua produzione musicale incomincia ad emergere tra il 69 e il 70, dunque proprio figlio di quella stagione, direttamente figlio di questa stagione appunto di lotte e di rivendicazioni. Appunto, in questo disco del 1970, Nation Time, è un vero e proprio tributo alla poeta Amery Baraka, e John McPhee appunto emerge nel suo collegamento stretto a tutta una serie di battaglie, ed è anche uno dei musicisti collegati a questo movimento appunto afrofuturista, e da lui ovviamente abbiamo voluto trarre un lavoro, un disco di riferimento per collegare in questo percorso musicale. E lui si trova, diciamo, tra le origini e il futuro di questo movimento afrofuturista, essendo comunque nato musicalmente ed emerso appunto nelle origini cosiddette, così definite da questo movimento, cioè la fine degli anni 60, inizio 70, ma anche attraversato, diciamo, gli anni 80, un periodo dove la musica afroamericana, soprattutto connessa al jazz cosmico, improvvisativo e d'avanguardia, ha avuto un momento sicuramente di modificazione, anche perché negli anni 80 emergeva tutta la scena dance attraversata dall'electro e poi dal rap e l'hip hop, dunque un nuovo linguaggio che attraversava appunto la popolazione afroamericana, ma lui ha continuato a portare avanti il proprio linguaggio musicale, connesso appunto al jazz improvvisativo, alla sperimentazione vicina anche a un certo free, ma uscendo e collegandosi anche a dinamiche musicali che alle volte abbracciavano anche alcuni linguaggi connessi alla musica contemporanea. Ebbene, appunto, nel 1982 esce un disco estremamente interessante, Topology, dove lo stesso musicista riesce bene a sintetizzare un periodo storico di mutamento a livello di linguaggi musicali, ma a mantenere un filo rosso di congiunzione che l'ha caratterizzato anche successivamente nei dischi e nelle collaborazioni musicali che ha portato avanti. Nello stesso periodo degli anni 80, quando esce Topology, il musicista John McPhee, oltretutto polistrumentista in termini connessi agli strumenti a fiato, dunque clarinettista, ma anche trombonista, trombettista e sassofonista, collabora anche con i grandi progetti che emergevano connessi alla musica electro e a una certa dance elaborata ed importante. Lo stesso Hancock, con il disco importantissimo Photoshock, vede una collaborazione dello stesso musicista, ma non solo, anche altri progetti che attraversano appunto gli anni Ottanta lo vedono comunque interessato, curioso e dialettico in queste nuove forme di linguaggio musicale. Ma noi ci soffermiamo sul disco Topology e andiamo ad ascoltare appunto una traccia da questo splendido lavoro, che riesce bene a sintetizzare il periodo e il linguaggio degli anni Ottanta in un'ottica nuova che poi ben pochi hanno seguito su quella linea, ma che comunque è importante da sottolineare appunto in un discorso storico che parte dagli anni 60 e arriva ai giorni nostri. Dunque, John McPhee, Topology. E siamo ritornati in diretta anche perché questo brano è estremamente lungo, dunque abbiamo dovuto sfumarlo anche nell'ottica appunto della prima parte, che ormai è verso la chiusura. Manca circa un quarto d'ora alla fine della prima parte di 451 frammenti sonori. Era sicuramente interessante ascoltare anche un modo di affrontare la sperimentazione e appunto l'elaborazione musicale di Joe McPhee negli anni 80, un modo assolutamente interessante appunto di attraversare quegli anni che per la musica afroamericana aveva sicuramente caratterizzato la nascita di linguaggi nuovi che già prima avevamo affrontato e diciamo approfondito attraverso appunto tutta la scena della dance music, connessa anche a tutto il fenomeno elettro e rap, poi antesignano di tutto il percorso hip hop, e da John McPhee, che appunto rappresentava uno dei cardini del movimento nato appunto, concepito appunto l'afrofuturismo negli anni 90, da John McPhee ci spostiamo invece e troviamo un autore che nasce musicalmente negli anni 80, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, e che elabora le proprie sperimentazioni musicali soprattutto nei primi anni zero, con delle elaborazioni assolutamente interessanti. Un autore che nasce e cresce insieme a Andrew Cyril e Cecil Taylor, nella formazione appunto di Cecil Taylor, e collabora soprattutto con un altro grande che è passato attraverso 451 frammenti sonori molto spesso, cioè Matthew Shipp, questo straordinario ed eclettico musicista che appunto tra gli anni 90 e gli anni 0 elabora dei linguaggi assolutamente innovativi in termini di sperimentazione attraverso l'elettronica, attraverso la contemporanea, insomma attraversa vari linguaggi in una forma appunto molto vicina all'idea musicale ed espressiva appunto del movimento afrofuturista. Parliamo di David Ware che appunto soprattutto degli anni zero incomincia a elaborare dei progetti personali, dunque singoli con altri musicisti, costruendo delle architetture sonore assolutamente futuriste in questo senso, con delle aperture, con l'utilizzazione di archi, di atmosfere sonore assolutamente nuove, pur abbinandole con il suo strumento cardine, che è sempre questi tre musicisti che appunto stiamo presentando nella prima parte, sono contrassegnati dall'essere appunto vicini allo strumento del sax, che è il loro strumento cardine. Anche David Ware, appunto sassofonista, che però si diletta anche nell'elettronica, nella sperimentazione appunto anche con archi e con strumenti e atmosfere e strumentazioni elettroniche. Andiamo a pescare dal disco Threads del 2003 un lavoro che secondo me è assolutamente splendido proprio nelle atmosfere, nella concezione, nell'architettura concettuale di questo brano. E con David Ware chiudiamo la prima parte, ripartiremo ovviamente dopo il GR di Radio Popolare Network, dunque riprenderemo intorno a mezzanotte e 50 appunto sulla tematica dell'afrofuturismo, anche approfondendo un po' questo tipo di movimento, anche con i collegamenti connessi alla narrativa, agli scrittori e musicisti e anche ad altri artisti che hanno attraversato questo movimento appunto così definito della diaspora africana. Andiamoci ad ascoltare questo splendido lavoro di David Ware. Ci spostiamo come atmosfera in questi tre brani. Lo spostamento d'atmosfera è abbastanza presente, da Sanders a McPhee, che modifica molto l'atmosfera solare, immaginifica, aperta, appunto cosmica di Sanders. Ci troviamo più in una dimensione quasi concreta, materiale, ruvida, per arrivare invece a Ware, che di nuovo apre, ma in maniera molto differente, appunto quasi vicina a certe colonne sonore di una certa fantascienza che molto ha a che fare con questo movimento afrofuturista. Dunque David Ware da Threads 2003, buon ascolto e ovviamente a risentirci dopo il GR di Radio Popolare Network.